Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Il pranzo di Babette di Karen Blixen, traduzione di Paola Oietti. La domenica mattina cominciò a nevicare. I fiocchi bianchi cadevano veloci e fitti. Le piccole imposte delle finestre della casa gialla erano bianche di neve. Nelle prime ore della giornata, un fattorino di Fossum portò un biglietto alle due sorelle. La vecchia signora Löwenhielm abitava ancora nella sua casa di campagna. Ora era novantenne e completamente sorda. Aveva perso del tutto il gusto e l'olfatto, ma era stata tra i primi sostenitori del decano e ora né l'infermità né il viaggio in slitta potevano impedirle d'onorarne la memoria. Scriveva inoltre che suo nipote, il generale Lorenz Löwenhielm, improvvisamente venuto a farle visita, aveva parlato con profonda venerazione del decano e le chiedeva il permesso di condurlo con sé. Gli avrebbe fatto bene, perché il caro ragazzo appariva piuttosto abbattuto. Allora Martina e Filippa ricordarono il giovane ufficiale e le sue visite, e parlare di quei lontani giorni felici sollevò la loro ansia presente. Risposero subito con un biglietto per dire che il generale Löwenhielm sarebbe stato il benvenuto. Poi chiamarono Babette per informarla che a cena sarebbero stati 12 e soggiunsero che quest'ultimo ospite aveva vissuto molti anni a Parigi. Babette sembrò soddisfatta di quella notizia e assicurò che il cibo sarebbe stato sufficiente. Le padrone di casa fecero i loro piccoli preparativi nel salotto. Non osavano mettere piede in cucina. Babette aveva misteriosamente scovato il sottocuoco di una nave che era in porto. Lo stesso ragazzo scoprì Martina, che aveva portato a casa la tartaruga, perché ella si stesse in cucina e servisse a tavola. E ora la donna bruna e il ragazzo rosso, come una strega col suo genietto familiare, avevano preso possesso di quei paraggi. Le signorine non si figuravano quali fuochi ardessero o quali paiuoli gorgogliassero là dentro da prima dell'alba. La biancheria da tavola e l'argenteria erano state magicamente stirate e lucidate e caraffe e bicchieri erano arrivati solo Babette sapeva da dove. La casa del decano non possedeva 12 sedie per la tavola da pranzo. Allora il lungo divano imbottito di crine era stato trasportato dal salotto in sala da pranzo e il salotto, sempre scarsamente ammobiliato, ora appariva stranamente spoglio e grande. Martina e Filippa fecero del loro meglio per abbellire il dominio che era loro rimasto. Comunque fossero i guai che aspettavano i loro ospiti, essi non avrebbero in alcun modo avuto freddo, perché le sorelle rimpinzarono per tutto il giorno la torreggiante vecchia stufa con ceppi di betulla. Appesero una ghirlanda di ginepro alla parete attorno al ritratto del padre e posarono dei candelieri sul tavolinetto da lavoro della madre che era sotto a questo. Poi bruciarono dei ramoscelli di ginepro perché la stanza avesse buon odore. Intanto si domandavano se, con quel tempaccio, la slitta avrebbe potuto arrivare da Fossum. Alla fine si misero il loro vecchio abito nero della festa e la croce d'oro della cresima. Si sedettero, intrecciarono le mani in grembo e si affidarono a Dio. I vecchi fratelli e le vecchie sorelle arrivarono a piccoli gruppi ed entrarono nella stanza lentamente e solennemente. Quella stanza bassa, col pavimento nudo e i pochi mobili, era cara ai discepoli del decano. Fuori dalle sue finestre era il vasto mondo. Visto da lì dentro, il vasto mondo, nel suo candore invernale, era sempre graziosamente bordato di rosa, azzurro e rosso dalla fila di giacinti che era sul davanzale. Ed estate, quando le finestre erano aperte, il vasto mondo aveva una cornice dolcemente mossa di tende di mussola bianca. Quella sera gli ospiti vennero accolti sulla soglia da tepore e dolce profumo e guardarono in faccia il loro amato maestro inghirlandato di sempreverde. Si sentivano sgelare il cuore come le dita intirizzite. Un vecchissimo fratello, dopo alcuni istanti di silenzio, intonò con voce tremante uno degli inni del maestro. «Gerusalemme, dimora mia felice, nome a me caro in sempiterno». Una per una le altre voci si unirono alla sua, esili e tremanti voci di donna, profondi borbottii di antichi fratelli marinai e sopra a tutti la limpida voce di soprano di Filippa, un po' consumata dall'età, ma sempre angelica. Senza volerlo, i coristi si erano presi tutti per mano. Cantarono l'inno fino in fondo, ma non sopportarono di smettere e ne intonarono un altro. «Al cibo e alla veste non dar pensiero, ma attenta cura abbi». Le padrone di casa si sentirono in un certo senso rinfrancate da quel canto e le parole del terzo versetto «Dareste voi un sasso o un rettile al bimbo che piange affamato?» andarono dritte al cuore di Martina e la colmarono di speranza. A metà dell'inno si udirono tintinnare fuori i campanelli della slitta. Erano arrivati gli ospiti da Fossum. Martina e Filippa andarono a riceverli e li accompagnarono in salotto. La signora Löwenhielm era con l'età diventata piccolissima. Aveva il viso senza colore come la pergamena ed era quasi immobile. Al suo fianco il generale Löwenhielm, alto, robusto e rubicondo, con l'uniforme vivace, il petto coperto di decorazioni, si gonfiava e brillava come un uccello ornamentale. Un fagiano dorato o un pavone in quella posata riunione di cornacchie e corvi neri. Il generale Löwenhielm era venuto da Fossum a Berlevag in uno strano stato d'animo. Da 30 anni non visitava quella regione. Era venuto ora a riposarsi della sua faticosa vita di corte e non aveva trovato riposo. C'era abbastanza pace nella vecchia casa di Fossum ed essa appariva di una piccolezza quasi patetica dopo le Tuileries o il palazzo d'inverno. Ma in essa c'era un'immagine che non gli dava requie. Quella del giovane tenente Löwenhielm che passeggiava per le sue stanze. Il generale Löwenhielm vedeva quell'esile bella figura passargli accanto e passando il ragazzo dava all'uomo anziano una breve occhiata e un sorriso, il sorriso altezzoso e arrogante che la gioventù dà all'età matura. Il generale avrebbe voluto ricambiare il sorriso, gentilmente e un po' tristemente, come l'età matura sorride alla gioventù, ma non aveva affatto l'animo di sorridere. Era, come aveva scritto sua zia, piuttosto abbattuto. Il generale Löwenhielm aveva ottenuto tutto quanto si era sforzato d'ottenere dalla vita ed era ammirato e invidiato da tutti. Soltanto lui sapeva di uno strano fatto in contrasto con la sua prosperità. Non era veramente felice. Qualcosa non andava bene da qualche parte ed egli saggiava ogni punto della sua mente come chi tastasse con un dito per individuare il punto in cui si è ficcata una spina profonda e invisibile. Godeva del pieno favore della corte, aveva fatto bene nella sua carriera, aveva amici dappertutto. La spina non s'era ficcata in alcuno di quei punti. Sua moglie era una donna brillante e ancora piacente, Forse trascurava un poco la casa per far visite e andare a feste, cambiava domestici ogni 3 mesi e i pasti del generale erano serviti con poca puntualità. Levenhelm, che nella vita attribuiva alto valore al mangiar bene, provava in questo una piccola amarezza verso la consorte e le rimproverava segretamente la cattiva digestione che talvolta lo faceva soffrire. Eppure la spina non era nemmeno qui. E poi al generale accadeva recentemente una cosa assurda. Si scopriva in apprensione per l'immortalità della sua anima. Ne aveva motivo? Era un individuo morale, fedele al re, a sua moglie, ai suoi amici, un esempio per tutti. Eppure in certi momenti gli pareva che il mondo non fosse per lui un problema morale, ma mistico. Si guardava allo specchio, osservava la fila di decorazioni appuntate sul petto e sospirava a se stesso: vanità, vanità, tutto è vanità. La strana riunione di Fossum lo aveva costretto a fare un bilancio della sua vita. Il giovane Lorenz Levenhelm aveva attirato sogni e fantasie come un fiore attira api e farfalle. Aveva lottato per liberarsene, ne era fuggito e ne era stato inseguito. Aveva avuto paura della Huldre, della leggenda di famiglia, e aveva declinato il suo invito a salire da lei sulla montagna. Aveva fermamente rifiutato l'offerta della visionarietà. Il maturo Lorenz Levenhelm si scoprì a desiderare che un piccolo sogno gli venisse incontro e una grigia falena crepuscolare lo visitasse prima di notte. Si scoprì anelare alla visionarietà come un cieco anela la normale facoltà della vista. Può un'intera serie di vittorie conseguite in molti anni e in molti paesi essere una sconfitta? Il generale Levenhelm aveva esaudito i desideri del tenente Levenhelm e largamente soddisfatto le sue ambizioni. Si può dire che s'era conquistato il mondo intero. Ma ora, dunque, il saggio ed orgoglioso uomo maturo si rivolgeva alla giovane ingenua figura per chiederle con gravità, finanche con amarezza, a che cosa era servito tutto ciò. A un certo punto qualcosa si era smarrito. Quando la signora Levenhelm aveva detto al nipote dell'anniversario del decano ed egli aveva stabilito di andare con lei a Berlevag, la sua decisione non era stata la comune accettazione di un invito a pranzo. Quella sera, decise, avrebbe chiuso i conti col giovane Lorenz Levenhelm, che in casa del decano s'era sentito una figura timida e triste e che alla fine ne aveva scrollato via la polvere dagli stivaloni. Avrebbe indotto il giovane a provargli, una volta per tutte, che 31 anni prima egli aveva scelto la strada giusta. Le stanze col soffitto basso, lo stoccafisso e il bicchiere d'acqua posto a tavola davanti al suo piatto avrebbero testimoniato che in quel mondo l'esistenza di Lorenz Levenhelm non avrebbe tardato a essere tutta malinconia. Lasciò che la sua mente vagasse lontana. A Parigi, una volta, aveva vinto un concorso ippico ed era stato festeggiato da alti ufficiali della cavalleria francese, tra i quali erano principi e duchi. Un pranzo era stato dato in onor suo nel più raffinato ristorante della città. A tavola, di fronte a lui, c'era stata una nobildonna di famosa bellezza che egli aveva corteggiato a lungo. A metà del pranzo, lei lo aveva fissato, oltre il bordo del bicchiere di champagne, con occhi scuri di velluto, e senza parlare gli aveva promesso la felicità. Ora, in slitta, ricordava tutto a un tratto che in quel momento si era visto davanti, per un attimo, il viso di Martina e lo aveva respinto. Indugiò un poco ad ascoltare il tintinnio dei campanelli della slitta, poi sorrise lievemente al pensiero che quella sera avrebbe dominato la conversazione alla stessa tavola presso la quale il giovane Lawrence Leuwenhelm era stato seduto in silenzio. Grandi fiocchi di neve cadevano fitti e i solchi lasciati dalla slitta erano rapidamente cancellati. Il generale sedeva impassibile a fianco della zia, col mento affondato nell'alto bavero di pelliccia del pastrano. Quando il folletto dai capelli rossi che era al servizio di Babette aprì la porta della stanza da pranzo e gli ospiti ne varcarono la soglia lentamente, non si tennero più per mano e rimasero in silenzio. Ma era un dolce silenzio, perché in spirito si tenevano ancora per mano, cantando. Babette aveva messo una fila di candele in mezzo alla tavola e quelle fiammelle brillavano contro le giacche e le vesti nere e contro l'unica uniforme scarlatta e si riflettevano nei chiari occhi umidi. Il generale vide il volto di Martina nella luce delle candele come lo aveva visto 30 anni prima, quando i due si erano lasciati. Quali tracce avevano mai potuto lasciarvi 30 anni di vita a Berlevag? I capelli d'oro adesso erano striati d'argento, il viso, tanto simile a un fiore, piano piano si era fatto d'alabastro. Ma quanto serena era quella fronte e quanto pacato e fiducioso quello sguardo, quanto pura e dolce la bocca, come se mai parole avventate fossero uscite da quelle labbra. Quando tutti si furono seduti, i membri anziani della congregazione ringraziarono il Signore con le parole dello stesso decano. «Possa il mio cibo nutrire il mio corpo, possa il mio corpo sostenere la mia anima, possa la mia anima, in atti ed in parole, rendere grazie al Signore per ogni cosa». Alla parola cibo, gli ospiti, con il vecchio capo chino sulle mani unite, ricordarono che s'erano giurati di non pronunciar parola su quell'argomento e in cuor loro rafforzarono il voto. Non gli avrebbero dedicato neppure un pensiero. Erano seduti a mensa, è vero, come si erano seduti convitati alle nozze di Cana, e la grazia aveva scelto di manifestarsi qui, nel vino stesso, in pienezza, come ovunque. Il ragazzo di Babette colmò un bicchierino di fronte a ogni membro della comitiva. Essi lo portarono alle labbra, seri, a conferma della loro risoluzione. Il generale, che sospettava un poco di quel vino, ne beve un sorsetto, sussultò, sollevò il bicchiere prima all'altezza del naso e poi degli occhi e si buttò indietro, sbalordito. «Che strano!» pensò. «Amontillado! E del miglior amontillado che mai abbia assaggiato!» Dopo un attimo, per provare i suoi sensi, prese una mezza cucchiaiata di minestra, poi una cucchiaiata piena e posò il cucchiaio. «È incredibilmente strano», disse a se stesso. «Sto certamente bevendo brodo di tartaruga. E che brodo di tartaruga?» Fu preso da uno strano panico e si vuotò il bicchiere. Di solito a Berlevag nessuno parlava molto mentre mangiava, ma quella sera, non si sa come, le lingue s'erano sciolte. Un vecchio fratello narrò la storia del suo primo incontro col decano. Un altro evocò la predica che 60 anni prima aveva provocato la sua conversione. Una vecchia, quella alla quale Martina aveva confidato per prima il suo sgomento, ricordò ai suoi amici che nell'afflizione ogni fratello e sorella sarebbe stato pronto a spartire il fardello dell'altro. Il generale Leuwenhelm, che doveva dominare la conversazione alla mensa, riferì che la raccolta dei sermoni del decano era il libro prediletto della regina. Ma quando fu servita una nuova pietanza, rimase in silenzio. «Inaudito», disse a se stesso, «questo è Bligny de Midoff». Si guardò attorno, osservò i suoi compagni di tavola. Mangiavano tutti calmi calmi il loro blini de midof, senza dar mai segno di stupore o di approvazione, come se lo avessero mangiato ogni giorno per 30 anni di fila. Una sorella, dall'altro lato della tavola, portò il discorso sugli strani avvenimenti che avevano avuto luogo mentre il decano era ancora tra i suoi figliuoli e che ci si può azzardare a chiamar miracoli. «Ricordavano?» chiese. «Di quando aveva promesso un sermone natalizio al paese che sta dall'altra parte del fiordo?» Da 15 giorni il tempo era così brutto che nessun marinaio o pescatore si azzardava a fare la traversata. I paesani stavano deponendo ogni speranza, ma il decano disse loro che se nessuna barca lo avesse portato, lui sarebbe andato da loro camminando sulle onde. E guarda, 3 giorni prima di Natale la tempesta si placò, cominciò il gelo e il fiordo si ghiacciò da riva a riva, ed era una cosa mai accaduta a memoria d'uomo. Il ragazzo colmò di nuovo i bicchieri. Questa volta i fratelli e le sorelle capirono che quanto era dato loro da bere non era vino, perché spumeggiava. Doveva essere una specie di limonata. La limonata giovava al loro stato d'animo esaltato e sembrava sollevarli da terra fino a una sfera più alta e più pura. Il generale posò di nuovo il bicchiere, si rivolse al suo vicino di destra e gli disse: «Ma questo è certamente un Veuve Clicquot del 1860!» Il vicino lo guardò cortesemente, gli sorrise e fece un'osservazione sul tempo. Il ragazzo di Babette aveva ricevuto istruzioni precise. Riempiva il bicchiere della confraternita una sola volta, ma riempiva quello del generale appena era vuoto. E il generale lo vuotava in fretta ogni volta. Un uomo assennato come deve comportarsi quando teme di essere fuori di senno? Meglio ubriaco che matto. Spesso quelli di Berlevag, durante un buon pasto, sentivano un po' di peso allo stomaco. Quella sera non era così. I convitati si sentivano alleggerire nel peso e nel cuore più mangiavano e più bevevano. Non avevano più bisogno di ricordare a loro stessi il giuramento. Si resero conto che quando l'uomo non ha solo totalmente dimenticato, ma anche fermamente respinto ogni idea che riguardi il mangiare e il bere, allora sì che mangia e beve nel giusto stato d'animo. Il generale Levenier smise di mangiare e rimase impassibile. Era nuovamente portato indietro nel tempo, al pranzo di Parigi che gli era venuto a mente sulla slitta. Un piatto incredibilmente ricercato e gustoso era stato servito quella sera e lui ne aveva chiesto il nome al suo vicino, il colonnello Gallifet, e il colonnello gli aveva detto, sorridendo, che si chiamava caille en sarcophage. Gli aveva poi spiegato che quel piatto era stato inventato dal cuoco dello stesso caffè in cui stavano pranzando, persona nota in tutta Parigi come il più grande genio culinario dell'epoca e, cosa tanto più sorprendente, quel cuoco era una donna. «Infatti», diceva il colonnello Gallifet, «questa donna sta ora trasformando un pranzo al caffè anglais in una specie di avventura amorosa». Una di quelle avventure amorose di categoria nobile e romantica in cui non si distingue più tra la fame o la sazietà del corpo e quella dello spirito. M'è già capitato di battermi in duello per amore di una dama bionda, ma per nessuna donna a Parigi, mio giovane amico, verserei più volentieri il mio sangue. Il generale si voltò verso il vicino di sinistra e gli disse: «Ma questo è caille en sarcophage!» Il vicino, che aveva appena ascoltato la descrizione di un miracolo, Lo guardò distrattamente, poi ammiccò e rispose: «Sì, sì, certo, che altro potrebbe essere?» Dai miracoli del maestro, la conversazione attorno alla tavola era passata ai più minuti miracoli di bontà e di solidarietà operati quotidianamente dalle sue figliuole. Il vecchio fratello, che per primo aveva intonato l'inno, citò un detto del decano: «Le sole cose che possiamo portare con noi dalla nostra vita terrena sono quelle che abbiamo donato». Gli ospiti sorrisero. Che ricche sarebbero diventate nel mondo di là queste povere e semplici signorine. Il generale non si stupì più di nulla. Quando, pochi minuti dopo, vide davanti uva, pesche e fichi freschi, rise guardando il commensale che gli stava di fronte e osservò: «Che splendida uva!» Il vicino rispose: «E scesero fino al ruscello di Escol e staccarono un ramo con un grappolo d'uva e lo portarono in due infilato su un palo». Allora il generale sentì che era giunto il momento di pronunciare un discorso. Si alzò in piedi, perfettamente eretto. Nessun altro convitato si era alzato a parlare. I vecchi alzarono gli occhi su quel volto, lassù, in sublime, felice attesa. Erano abituati a vedere marinai e vagabondi ubriachi fradici per lo scadente gin locale, ma non riconoscevano in un guerriero e cortigiano l'ebbrezza provocata dal più nobile vino del mondo. Anna Bonaiuto ha letto Il pranzo di Babette di Karen Blixen. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.